Sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 29 dicembre, il sole in regione sorto alle 7.50 e tramonterà alle 16.29. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Bilancio di fine anno con l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier in apertura di puntata, con l'alternarsi di comparti d'eccellenza e altri che invece arrancano. A seguire il corsivo di Enos Costantini, che argomenta come l'unico sovranismo sensato al mondo sia quello alimentare che ci ha dato da mangiare sano fino a qualche decennio fa. Per la rubrica delle normative, le nuove disposizioni in materia di informatizzazione della burocrazia degli allevamenti, le collaborazioni con le altre regioni italiane e la Slovenia sono invece al centro della rubrica dell'olio e dell'olivo, che si sofferma ancora sul periodo di reintroduzione della cultura in regione, mentre per quella dei giardini c'è una scheda su un parco di sculture ad Artegna. Le discussioni intorno alla regolamentazione delle concimaie sono invece al centro dello spazio che ormai da 9 puntate dedichiamo al letame. Mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Classica intervista di fine anno all'assessore alle risorse agroalimentari della regione Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier. Innanzitutto, domanda d'obbligo, com'è andata? È andata come quasi ogni anno, ovvero luci e ombre, comparti che diversificati all'interno del comparto agricolo, alcuni viaggiano con numeri interessanti, altri sono in costante difficoltà e sono quelli che preoccupano di fatto di più. Allora, passiamo ai punti di forza. Ci sono tutta la parte del mondo del vitivinicolo, nonostante l'annate, però costantemente riescono a registrare degli aumenti di export e di fatturati, quindi tecnicamente è un settore che è in piena salute, può migliorare molto, ma comunque è in salute. E la parte più in crisi è comunque quella del cerealicolo, dei seminativi e il lattiero caseario, anche se si vede qualche iniziale segnale di aggregazioni da parte dei produttori, che sono sicuramente utili nel cercare di dare struttura alle aziende. Politica e agricoltura, o meglio amministrazione e agricoltura. L'anno scorso si gioiva perché si era disincagliato il PSR, i pagamenti. Ma quest'anno siamo andati via lisci, nel senso che al mese di novembre avevamo già raggiunto gli obiettivi comunitari, quindi siamo abbastanza tranquilli, nel senso che problemi ce ne sono ancora molti. È chiaro che in queste condizioni noi abbiamo una prospettiva anche per quest'anno di raggiungere gli obiettivi senza particolari difficoltà, quindi diciamo che il sistema si è equilibrato, ma rimane di fondo un sistema che ha una patologia, che è quella da un lato di un meccanismo informatico veramente paradossale e dall'altro di regole che derivano dai regolamenti europei, che comunque mettono talmente tanti vincoli che a volte quasi scoraggiano gli investimenti. Guardiamo il 2020 con la bacchetta magica, cosa risolverebbe come primo problema? Ma se riuscissi a risolvere il problema che il nostro mais non venisse pagato a poco più di 9 euro al quintale, se riuscissimo a dire che il nostro latte non viene pagato poco più di 38 centesimi al litro, beh, avremmo già fatto un successo clamoroso. Però sappiamo che questi sono valori indipendenti dalle nostre volontà, ma sono governati da un mercato. È chiaro che riuscire ad aggregare e strutturare le aziende il più possibile le rende più resilienti rispetto alle difficoltà. Tra i nuovi problemi ci sono anche quelli del cambiamento climatico, l'arrivo di nuove bestiacce che rendono i giorni amari anche agli agricoltori. Patologie che derivano da soggetti alieni, cimici in particolare, dove quest'anno non diciamo e non facciamo trionfalismi, però c'è stato e registrato un calo consistente della popolazione, ma in ogni caso non è sufficiente per non generare un danno importante alle colture, quindi il percorso fino a che non verrà autorizzata l'immissione degli antagonisti alloctoni sarà estremamente duro, e la nostra preoccupazione è quella di trovare degli strumenti con con il quale tenere in piedi le imprese nel periodo fino a cui siamo abbastanza convinti si troverà poi un equilibrio in via naturale. E l'altra questione invece è quella legata alla disponibilità dell'acqua. Abbiamo una carenza idrica in determinati periodi, specialmente nella parte dell'Udinese, diciamo così, perché il Pordenonese con i bacini tutto sommato riesce a salvarsi e il Goriziano anche ha dei problemi legati alle fluttuazioni dell'Isonzo, iniziano a soffrire addirittura le colline per la viticoltura, quindi gli investimenti qui sarebbero con tanti tanti zeri e vedremo fino a dove riusciremo a lavorare. Da decenni il numero dei contadini sul pianeta è in continuo e inarrestabile calo. Si tende a limitare l'unico sovranismo sensato, quello alimentare, come ci argomenta oggi nel suo corsivo Enos Costantini. Hanno chiuso 10.000 piccole stalle e nessuno ha detto niente. Eppure una piccola stalla è almeno un posto di lavoro. È una piccola fabbrica che non può inquinare neanche se vuole. Anzi, produce fertilizzanti di qualità incomparabile, i soli che possono mantenere la fertilità del terreno nel tempo. Questo tanto per parlare di sostenibilità e di resilienza. La tendenza a livello mondiale, anzi planetario, anzi globale, è quella di far diminuire il numero degli agricoltori, quindi dei piccoli allevatori. Non dico solo l'Amazzonia dissodata e assoiata, dove puoi fare migliaia di chilometri senza vedere l'ombra di contadino. Dico l'Africa dei piccoli coltivatori, costretti, e dico costretti, ad abbandonare i loro campicelli e la loro vaccherella per andare nelle più sordide bidonville del pianeta, dove non vi è orgogliosa povertà, bensì miseria della più misera, senza igiene e senza dignità. Le conseguenze le abbiamo sotto gli occhi ogni giorno. Ma qui non si vuole fare del terzo mondismo, bensì del sovranismo, però l'unico che abbia un senso, quello alimentare. Chiediamo che accanto al Ministero della Difesa Nazionale si crei il Ministero della Difesa Alimentare. La teologia della liberazione è in buona parte teologia della alimentazione. La sovranità alimentare al mille per mille non è mai esistita. Ma per 10.000 anni è esistita la sovranità alimentare nei limiti del possibile. Ciò vale per la Carnia come per la Bisiacaria, per il Carso come per la Somalia e la Dancalia. Qualche lustro addietro si cominciò a lanciare strali contro l'autoconsumo e contro il mercato locale, a fare pubblicità per la margarina e per l'acqua sporca in lattina. L'immagine del contadino divenne tanto negativa che i giovani delle campagne non trovavano neppure una donna da maritare. Ma non vogliamo qua rifare la storia recente, vogliamo parlare di soldi. Si dice sempre che i soldi mancano, invece ci sono. E come se ci sono? Per fare che cosa? Per cambiare musica e avere cibo sano in un pianeta che sospenda la corsa verso il baratro termico. Soldi per chi? Per i contadini. La parte più consistente del budget europeo è ancora destinata all'agricoltura. Quindi bisogna partire all'assalto di Palazzo Charlemagne e di Palazzo Berlemont, lassù a Bruxelles, nonché dei tanti palazzi d'inverno nazionali e regionali. La rivoluzione d'ottobre si dovrà fare tutti i mesi dell'anno, avendo come obiettivo iniziale 3.000 ettari di fagioli coltivati in Friuli e un autoapprovvigionamento alimentare regionale di almeno il 25%, con almeno il 40% di ortaggi prodotti fra la Slovenia e la Marca, fra l'Austria e l'Adriatico. I soldi ci sono, e sono tanti. Facciamo in modo che siano spesi bene, per l'agricoltura, per la salute e per le prossime generazioni. A proposito, qualcuno conosce un parlamentare europeo? L'informatica è ormai entrata nella quotidianità degli allevamenti. Assieme a Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, vediamo quali innovazioni porterà il 2020 nel settore zootecnico. Ecco, parliamo in particolare dell'anagrafe zootecnica, anche nota come BDN. Si tratta di una banca dati pubblica accessibile via web che viene costantemente aggiornata dagli allevatori e consente di sapere in tempo reale qual è il patrimonio zootecnico delle singole aziende. Gli scopi sono diversi e vanno da esigenze veterinarie a controlli amministrativi per il pagamento di aiuti nazionali e comunitari. Praticamente ogni specie allevata ha la sua anagrafe con funzionalità specifiche, anche perché per alcuni animali, come per esempio i bovini, è possibile tracciare il singolo capo. Per polli, conigli o meglio ancora le api, questo evidentemente non è pensabile. L'informatica in questo campo aiuta gli operatori? Più che essere di aiuto, direi che è fondamentale perché facilita enormemente l'elaborazione e l'analisi dei dati, ma evidentemente il sistema richiede precisione e puntualità nell'immissione delle informazioni relative alle entrate e uscite degli animali dagli allevamenti e non tutti sono sempre diligenti. E quali novità allora ci attendono dal prossimo anno? Allora, gli allevatori sanno bene che per legge la movimentazione degli animali deve sempre essere scortata da un documento di accompagnamento speciale noto come modello 4. Per alcune specie da qualche tempo questo documento è diventato esclusivamente telematico e il cartaceo non si può più utilizzare. Siccome le funzionalità per l'emissione del modello 4 elettronico risiedono proprio all'interno del portale dell'anagrafe zootecnica, l'evoluzione del sistema prevede che, a partire dal 7 gennaio per i bovini e a seguire dal 28 gennaio per gli avicoli, il carico e lo scarico dei capi dalla BDN si realizzerà in automatico sulla base dei dati introdotti nei modelli 4 elettronici. Detta così sembra una banalità. Sembra, ma non lo è, in quanto anche nella compilazione dei modelli 4 si possono commettere degli errori. Per questo la BDN genererà un messaggio email per l'allevatore per segnalare la presenza di modelli 4 in uscita o in entrata al suo allevamento. L'allevatore, se necessario, potrà modificare i dati al massimo entro 7 giorni, oppure 3 giorni nel caso in cui si avvale la BDN per la tenuta del registro di stalla. Scaduti i termini, la rettifica sarà considerata una ritardata comunicazione. La rinascita dell'olio e dell'olivicoltura in Friuli Venezia Giulia passa anche tramite una serie di collaborazioni nazionali e addirittura internazionali. Ne parliamo con Ennio Scarbolo che ci cura questa rubrica. Alla fine degli anni 90 e inizio 2000, essa intraprese una collaborazione nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria Interreg Italia-Slovenia 2000-2006, progetto Wellie. In collaborazione con il CRA di Spoleto, Centro di Ricerca per l'Olivicoltura e l'Industria Olearia, le varietà autoctone di olivo presenti nel campo collezione di Piatemare presso l'ITAS di Cividale sono state poste a confronto fra loro con le cultivar di olivo umbro, toscana e venete maggiormente diffuse nella zona. In sintesi sono stati valutati il grado di vigoria delle piante, il portamento e la densità della chioma, le caratteristiche morfologiche di foglie, infiorescenze, frutti, andamento della maturazione, la composizione dell'olio, il grado di tolleranza al freddo, l'analisi molecolare. La pubblicazione completa si può consultare sul sito wellie.eu. Tutti questi rilievi hanno permesso l'iscrizione degli ecotipi locali al registro nazionale delle cultivar di olivo. Con questa iscrizione gli olivicoltori possono mettere in etichetta il nome delle cultivar che compongono il blend e di pubblicizzare gli oli ottenuti da queste cultivar autoctone di olivo. Una ulteriore collaborazione fra Italia e Slovenia si inserisce un secondo progetto denominato Wellie 2 con lo scopo di promuovere il settore olivicolo nella zona transfrontaliera di Gorinska Brda della Valle del Vipacco, della regione goriziana e delle province del Friuli Venezia Giulia. La zona di attrazione del progetto presenta condizioni simili e queste contribuiscono ad uno sviluppo comune di attività nella zona transfrontaliera. Le attività prevedono studi e ricerche sulla qualità dell'olio di oliva e sulle potenzialità dell'olivicoltura, la moltiplicazione delle specie di olivo e la conservazione del patrimonio genetico autoctono. La formazione di un panel per la valutazione sensoriale dell'olio, l'acquisto di attrezzatura necessaria a completamento della filiera produttiva, la formazione degli operatori, la strategia del marchio Ma Wellie, nonché la sua protezione. Infine la promozione delle attività con la diffusione dei risultati. Anche questa pubblicazione è consultabile sul sito wellie.eu. Oggi con Franca Merluzzi, che ci cura la rubrica dei giardini, andiamo ad Artegna, nel parco delle sculture realizzato da Giovanni Patat, che ha appena compiuto 91 anni. Percorrendo la strada interna che da Artegna porta a Gemona, a un certo punto si scorge, tra gli alberi, una lunga fila di strane forme in pietra. Se qualcuno incuriosito si ferma, scopre che si tratta di sculture all'aperto, opere dell'artista Giovanni Patat d'Artegna. Nato nel 1928, è ancora tenacemente attivo. Ogni giorno scende nel suo laboratorio e lavora di punta, fresa e scalpello. L'idea del parco risale ai primi anni 90, quando Patat intuì che quella striscia di terreno accanto alla casa era il luogo ideale per ospitare le opere della sua maturità. Le prime due furono ricavate scolpendo massi emersi dalla terra con gli scavi dopo il terremoto. Seguirono poi altre opere realizzate con grande libertà, assecondando le venature e le conformazioni naturali delle rocce. Opere che hanno per sfondo gli alberi del parco, dunque. Qui le sculture si possono vedere e toccare. Sono collocate sul prato, che tra poco avrà una bella fioritura di bucaneve. D'estate profuma di timo selvatico ed è ombreggiato da un pino, piantato in occasione delle nozze con la moglie Anna, un ciliegio, una quercia e altre piante autoctone, assieme a qualche ulivo, alberi da frutta, un piccolo orto. È uno dei luoghi dell'infanzia e della sua verde prigione, titolo del libro in cui Patat racconta la sua vita e lo strettissimo legame con l'arte, spesso controcorrente. Lo scultore, dalla folta barba bianca, ha progetti per il futuro. Il tempo è per lui un bene prezioso, da vivere sempre intensamente, con tenacia e convinzione. A tutti gli auguri di buon anno. Buon finimento e buon principi. Nove puntate dedicate all'etame e ora siamo con Sandro Menegon che ci cura la rubrica alla razionalizzazione delle concimaie, ai vantaggi economico-sanitari che agevolarono la loro diffusione. Quali furono? Direi quasi, poiché il regio decreto del 1926 imponeva con l'articolo 1 l'obbligatorietà delle concimaie in tutte le stalle per capi grossi, bovini ed equini, entro 18 mesi dalla pubblicazione del decreto stesso. Nel caso di costruzione agglomerata, l'articolo 4 obbligava i comuni a fabbricare una o più platee fuori dell'abitato e prescriveva la suddivisione delle spese per la costruzione tra gli allevatori, e l'articolo 5 demandava all'amministrazione comunale il compito di redigere e far rispettare i regolamenti per l'uso della platea comune e per il prelievo del letame. Viene da pensare che queste imposizioni non fossero però di facile soluzione. Indubbiamente, l'articolo 1 era sacrosanto, l'articolo 4 di non facile attuazione. Basti pensare alla scelta dell'obbligazione della concimaia e i parametri per la suddivisione delle spese, e l'articolo 5, la divisione cioè del re dei concimi, avrebbe provocato certamente incomprensioni, liti, il ricorso al giudice conciliatore o addirittura radire a vie legali. Alcune istituzioni, pur plaudendo l'opera del governo, auspicavano che venisse demandato alle amministrazioni locali il compito di elaborare i particolari tecnici legati alle diverse necessità delle zone agricole italiane. E quindi cosa successe? Il decreto del 1926 venne convertito in legge nel 1927, riducendo l'obbligatorietà delle concimaie alle stalle con più di due capi bovini ed equini grossi e prorogando la costruzione entro 3 anni dalla data delle pubblicazioni dei decreti prefettizi. Ma nel 1930 il termine suddetto viene posticipato ancora di altri 3 anni. Di conseguenza fu obbligatorio dal 1934, se capiamo bene. Sull'isonzo agrario nel 1933 si ricordava la scadenza e assicurava che tale termine non sarà ulteriormente prorogato, ma dal 1934 gli organi delle varie associazioni riportavano solo richiami al buon governo della concinaia, all'utilità del re dei concimi e alle qualità del burro nero. Inoltre, in considerazione di nuove priorità, per una condizione di decoro giustamente preteso dalle numerose stazioni climatiche sportive, si consigliarono in queste località effettivamente non molto numerose le concimaie a celle di fermentazione. Con Amos D'Antoni, ora l'andamento dei mercati agricoli comparati con quelli di 5 anni fa. In questa ultima domenica del 2019 diamo una valutazione sull'andamento di alcuni mercati agricoli confrontando i prezzi degli ultimi 5 anni. Nel settore cerealicolo, nel quinquennio, i prezzi del mais nazionale hanno subito leggere variazioni. Da 16 euro al quintale del 2015 siamo arrivati a 15,90 nel 2019. La soia da 33,25 ha avuto un'impennata arrivando a 38 euro negli anni 2016-2017, ora è a 34 il quintale. Anche il frumento da 18 euro del 2015 è passato a 20 l'anno scorso, ora è a 18,50. L'orzo ha avuto fasi alterne, da 17 e ora è andato a 16 il quintale. Nel comparto dei bovini, solo le vacche fine carriera hanno mantenuto e aumentato i prezzi. Da 2,50 del 2015 sono arrivate oggi a 2,70 il chilo, mentre i vitei da ristallo hanno perso quotazioni anno dopo anno. Esempio, i blu belga maschi da 7,10 il chilo sono ora a 6 euro. I pezzati rossi da 5,10 sono a 4,20. I frisoni da 2,30 del 2015 sono adesso a 1,60. Solo i bruni da 1,70 hanno perso dopo 5 anni solo 10 centesimi. Il settore suinicolo durante il quinquennio ha avuto diverse variazioni, buone le quotazioni fino al 2016. Invece nel 2017-18, per l'elevata disponibilità e maggiore produzione, ha comportato un calo dei prezzi interni sia dei suini lattonzoli che da macello. A inizio 2019, di fronte alla evidente diminuzione del patrimonio suinicolo cinese provocato da gravi problemi sanitari, si è avuto un forte incremento e oggi i lattonzoli si quotano a 2,98 euro il chilo, i grassi da macello a 1,62 e i nostrani a 2,40. Anche il comparto lattiero caseario ha avuto rallentamenti negli anni 2015-2016, con leggere perdite in particolare per il montaggio fresco, quello di 4-6 mesi, eppure il latte che veniva pagato sui 34 centesimi. Litro. Dal 2018 il settore lattiero caseario rispecchia un'intonazione positiva e mostra evidenti segnali di ripresa, con il prezzo del latte alla stalla che oggi mediamente si attesta sui 38,50 euro al litro, più premi qualità ed IVA. Considerando le spese di gestione delle stalle, il prezzo è ancora insufficiente per compensare il lavoro che viene prodotto dagli imprenditori zootecnici. Con il previsore dell'ARPA Osmer Marcellino Salvador sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Il 2019 sta finendo e rimandando un'analisi climatologica più completa alla prossima settimana anticipiamo solo qualche elemento saliente. È stato ancora un anno molto più caldo della norma, con 1,5 gradi oltre la media climatica, e si pone al terzo posto dopo il 2014 e il 2018, che lo precedono di pochi decimi di grado. Negli ultimi 6 anni abbiamo avuto i 4 anni più caldi da quando si fanno registrazioni di dati in regione. Il periodo estate-autunno di quest'anno è stato il più caldo in assoluto da quando si fanno misurazioni. Gli unici mesi più freddi della norma sono stati gennaio e soprattutto maggio. Maggio e novembre sono stati molto piovosi e l'anno termina con precipitazioni superiori alla norma. Passando alle previsioni, constatiamo che la settimana entrante vedrà prevalere l'anticiclone con aria relativamente mite in quota. Avremo quindi per diversi giorni cielo sereno e inversioni termiche notturne nelle valli. In pianura gelate notturne, mentre di giorno, da metà settimana, dopo le temperature relativamente basse di oggi e domani, torneremo a salire attorno ai 10 gradi. Temperature simili sulla costa, dove le minime invece non andranno sotto zero. L'Osmer ARPA augura buon 2020. Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. El dì di San Silvestri è il puer come il maestri, ovvero il giorno di San Silvestro festeggia sia il povero che il maestro, inteso come persona altolocata. In definitiva, festeggiano tutti. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?